Non scriverò più per i tuoi occhi verdi. Ho già stracciato troppi fogli e quante notti. Non scriverò più di una ragazza alla finestra, però un ricordo tutta quella tenerezza. Non fumerò più per un rimpianto assurdo, le sigarette consumate fino in fondo, i più bei fianchi che io rammenti risulteranno a me del tutto indifferenti. Non scriverò più, non canterò più, non proverò più niente di niente. No, non sarà così. Era un pretesto, sai, per questa stupida, un'altra stupida canzone. Poi li canterò i tuoi occhi, li ho proprio qui davanti, e canterò di notti i sogni di certi istanti. Se riuscirò, inventerò i tuoi fianchi, imprimerò il rumore lieve dei tuoi passi, e sarai bella, forse più bella. Avrai 20 anni, sempre ancora una carezza, e piangerò e riderò di tutta questa tenerezza.